In collegamento telefonico con Simona Seravesi, regista insieme a Nicola Lucini del documentario Looking for Flowers in Islamabad, che sarà programmato al Museo d'Arte Moderna Vittoria Colonna a Pescara giovedì 8 marzo. Simona, benvenuta. Di Grazie, grazie a tutti e ciao a tutti. cosa parla questo lavoro? Questo lavoro è un racconto di una serie di donne pakistane che ho incontrato durante il mio soggiorno in Pakistan, che è durato per circa 2 anni. E, donne che vengono da diverse regioni del Pakistan, che tutte quante più o meno lavorano in ambito sociale, socio-educativo. E poi anche la comunità transgender, che è un altro aspetto che abbiamo affrontato in questo diciamo, dipinto della società pakistana femminile, diciamo. Senti, com'è nato questo documentario, l'idea di filmare? Allora, l'idea è nata un po' con il regista Nicola, perché effettivamente quando sono tornata in Italia, dopo 2 anni, mi sono resa conto che da una parte la migrazione dal Pakistan in Europa e poi soprattutto nel nord dell'Italia, da cui appunto provengo, era aumentata moltissimo. E, con una però scarsa conoscenza di un paese come il Pakistan, e poi molto spesso questa conoscenza legata più agli avvenimenti, diciamo, negativi, più alle cose, tra virgolette, brutte. E così con Nicola mi è venuta un po' l'idea di raccontare questi personaggi che avevo così incontrato, in alcuni casi anche fortuitamente, perché mi sembravano dei personaggi molto forti, dei personaggi molto coraggiosi, che dessero un po' la misura di quanto questo paese sia sfaccettato e sia pieno anche di persone che lo vogliono cambiare, no? E che lo stanno anche cambiando. Senti, quante persone hai seguito e in che lasso di tempo? Sì. Il documentario abbiamo avuto poco tempo in realtà. Diciamo che ha aiutato molto il fatto che io conoscessi bene la realtà, conoscessi bene il paese, avessi un po' già tutti i vari contatti che mi ero fatta durante gli anni in cui ho vissuto in Pakistan. Il documentario l'abbiamo girato in circa 2 settimane e abbiamo cercato di concentrare il tutto, soprattutto di Islamabad, nella capitale, in quanto era anche un po' difficile andare in alcune città tipo Peshawar, in alcune, diciamo, regioni, per cui abbiamo preferito intervistarle, invitandole a venire ad Islamabad, raccontandoci però di queste regioni appunto remote del paese. E quindi sì, diciamo circa 10 giorni, giorni molto molto intensi. C'è stata una delle flowers, perché Looking for Flowers, le flowers sono proprio queste donne, questi fiori di Islamabad, che però in realtà non sono solo di Islamabad. Diciamo che una delle più dei personaggi più chiave è stata questa Taira, che ci ha fatto conoscere, ci ha portato anche alcune donne che io non conoscevo, e poi ci ha fatto accedere anche alla comunità transgender, che è molto difficile poter avere, diciamo, accesso a questa comunità. Senti, Flowers, che è costituita in una struttura, ha un programma, ce ne parli un po'? Allora, Flowers no, Flowers in realtà sono proprio queste donne, perché Islamabad è una città piena di fiori e il documentario lo cominciamo con Tahira Abdullah, che è un'attivista, che ci racconta del suo giardino, dei suoi fiori, di quanto suo padre, che era quindi un uomo, li curasse, che poi, peraltro, questo padre è un elemento, diciamo, chiave nel suo poi attivismo politico, perché a sua volta era un attivista. Per cui da lì nasce l'idea di chiamare Flowers, cioè di allargare poi questo tema dei fiori a tutte queste donne, perché poi in realtà effettivamente sono delle luci, no? Sono una cosa colorata, una cosa, diciamo, anche luminosa in un paese in cui comunque ci sono ancora moltissime disparità economico e sociali, ci sono moltissime ingiustizie, c'è il terrorismo e ci sono i talebani, ci sono zone in cui non si può accedere, le donne sono ancora purtroppo sottoposte a moltissime, anche diciamo come si dice in inglese, customary law, cioè le leggi locali per cui non sono tutelate, e tra l'altro lo raccontiamo proprio questo nel documentario. Quindi volevamo dare volevamo utilizzare un termine, diciamo, positivo, come sono positivi su questi personaggi, per quello è nato proprio il nome di Flowers, Looking for Flowers. Ok. Senti Simona, c'è una pagina Facebook, un sito internet di riferimento? Sì, cioè abbiamo questa pagina su Facebook, Looking for Flowers in Islamabad, e poi ne colgo l'occasione per dire a tutti gli ascoltatori che il documentario si può trovare anche su Vimeo, è proprio a disposizione, lo si può guardare. E ovviamente, vabbè, ci farebbe molto piacere se, insomma, lo si guardasse, perché è rimasto, cioè, è stato un lavoro, diciamo, tra virgolette, casalingo, che noi abbiamo cercato di far girare in vari circuiti, e poi abbiamo fatto questa scelta di metterlo a disposizione di tutti, e ci farebbe molto, molto piacere, insomma, se lo si guardasse. Benissimo. Allora ricordiamo l'appuntamento con Looking for Flowers in Islamabad, documentario di Nicola Lucini e Simona Seravesi in programmazione al Museo d'Arte Moderna Vittoria Colonna di Pescara giovedì 8 marzo. Simona, un abbraccio e a risentirci presto. Grazie mille, grazie a tutti voi e buona continuazione.